Radio Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome? Alessia Mosca. Età? 40. Nata? Monza. Eletta in? Nel nord-ovest. Con quanti voti? Con 181.000 e qualche cosa in più preferenze. Partito politico? Partito Democratico. Gruppo politico? Gruppo dei Socialisti Democratici. Quante lingue parla? 3. Benvenuta nella You Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Gli strumenti europei per la gestione delle crisi finanziarie si sono dimostrati inadeguati. Vanno ripensati. Come? Sicuramente c'è bisogno di maggior capacità da parte degli stati di pensare europeo e non pensare solamente dentro i confini nazionali. Questo significa rafforzamento dei poteri comunitari e rafforzamento della capacità di coordinamento. Questo vale per tutte le crisi e in tutte le crisi si è visto come è proprio la mancanza di coordinamento europeo quella che rende gli strumenti poco efficaci. Commercio europeo, punti di forza e di debolezza. Sicuramente punti di forza sono il fatto che c'è un'agenda molto intensa e attiva di accordi, di apertura di accordi commerciali, e l'accordo commerciale di nuova generazione di cui abbiamo già i risultati, che è il primo fatto 5 anni fa con la Corea del Sud, sta avendo dei risultati molto positivi. Punti di debolezza è che la politica commerciale ha bisogno di un ulteriore passo in avanti in termini di coinvolgimento di tutti i cittadini e di comunicazione costante, perché si parla non più solo di tariffe, ma di definire quali sono gli standard della vita di tutti i giorni. Il Fondo Monetario Internazionale recentemente ha detto che l'equità di genere conviene. Come siamo messi in Europa? In Europa siamo messi un po' meglio che in Italia, anche se non sono state prese delle decisioni coraggiose in alcuni campi. C'è bloccata una direttiva sui congedi parentali che tende a modernizzare, ad allargare questi diritti e che non sta progredendo. Perché si è candidata? Mi sono candidata perché ho sempre creduto che valesse la pena e valga la pena ancora adesso impegnarsi per il progetto comunitario, perché non è qualcosa di scontato. Io sono una che ha beneficiato dell'Europa unita, davvero unita, perché ho potuto godere di tanti miglioramenti della mia vita quotidiana nell'essere parte di una comunità più grande rispetto alla sola comunità delle singole nazioni con barriere l'une tra gli altri, e penso che sia importante continuare a lavorarla per migliorare, correggere gli errori, ma non perdere questa grandissima intuizione, questo grandissimo ideale. You Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.